Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il 1956 è un anno decisivo per l'Europa, forse per il mondo intero. È una sorta di anno zero per tutti gli intellettuali marxisti del mondo occidentale. Due eventi, infatti, scuotono le coscienze dei cittadini del vecchio continente. È estraneo allo spirito del marxismo-leninismo esaltare una persona e farne un superuomo fornito di qualità soprannaturali a somiglianza di un dio. Questo sentimento per un uomo, e precisamente per Stalin, l'abbiamo tenuto vivo in mezzo a noi per lunghi anni. Stalin era un misto di mania di persecuzione e di grossolanità. Il giardino della sua dacia era pieno dei suoi busti ed egli usava passeggiarvi in mezzo ammirandoli. Fu Stalin a formulare il concetto di nemico del popolo. Questo termine rese automaticamente superfluo che gli errori ideologici in una controversia venissero provati. Questo termine rese possibile l'uso della repressione più crudele. Al 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nel febbraio del 1956, il nuovo segretario del partito, Nikita Khrushchev, avvia la cosiddetta destalinizzazione. Racconta al mondo i delitti e le atrocità commesse dal dittatore, presentando ai compagni il suo rapporto segreto. Per tutti gli intellettuali marxisti è un colpo durissimo, tuttavia non è il più duro e sconvolgente che riserva quel fatidico anno. Il 23 ottobre, per le strade della capitale ungherese Budapest, manifestano migliaia di giovani studenti. È una manifestazione pacifica. Obiettivi sono il premier Matthias Rákosi, filo stalinista, e tutta l'influenza sovietica nel paese. I giovani sono convinti e determinati, allegri, chiassosi, colorati, inneggiano a un socialismo diverso. La vitalità della manifestazione è contagiosa, tanto che presto questa si allarga a dismisura, coinvolgendo ampie porzioni della società civile. Scoppiano i primi violenti scontri. I sovietici sono impreparati, tanto che il governo socialista cade. Nuovo premier è Imre Nagy, che si mostra presto decisamente solidale con la rivolta. La reazione di Mosca però non si fa attendere ed è violentissima. Il 4 novembre del 1956 l'Armata Rossa giunge alle porte di Budapest con un dispiegamento di mezzi spaventoso. Quasi 250.000 uomini e 4.000 carri armati. La cruentissima battaglia che ne segue, che dura per giorni, risulterà una mattanza e scuote nel profondo l'animo di tutti gli intellettuali di sinistra nel mondo. Per molti di loro non sarà più possibile guardare il mondo come prima, mai più. In Italia nomi illustri escono dal Partito Comunista dopo quei fatti del 56. Italo Calvino, Pierpaolo Pasolini, Alberto Moravia. Ovviamente, anche e soprattutto per milioni di ungheresi, nulla sarà più come prima. Essi ora capiscono di vivere sotto un giogo stretto e inalienabile, pedine di uno scontro ideologico tra due blocchi che si mostrano reciprocamente i muscoli in un estenuante e logorante stillicidio di minacce, nella convinzione di rappresentare il bene assoluto. In Ungheria, molti dei sopravvissuti, chi ne ha la possibilità almeno, lascia il paese in cerca di un futuro da qualche altra parte. Il dilemma, fuggire o rimanere, tocca da vicino una delle realtà sportive più straordinarie e ammirate all'estero che l'Ungheria abbia mai prodotto. La Honved Budapest. I tifosi più giovani, forse, difficilmente riescono ad associare l'Ungheria al grande calcio. Nella geografia del pallone, i magiari oggi occupano una posizione periferica, per certi versi marginale. Eppure c'è stato un tempo in cui l'Ungheria era forse la nazione calcisticamente più forte del vecchio continente e la squadra della capitale, la Honved, la formazione più temuta e spettacolare. Essa nasce dalle ceneri di una squadra della massima serie ungherese, il Kipest. Kipest è un rione di Budapest, situato fuori dal magnifico centro della città danubiana. Ed è lì che nel 1909 István Bede, professore di lettere di scuola media, fonda il Kipest. Solo nel 1920 il Kipest approda nella Serie A ungherese. Per molti anni il club fondato da Bede galleggia nella mediocrità del campionato ungherese, vincendo solo una Coppa d'Ungheria. Poi la nascita del professionismo nel mondo del pallone fa sì che i pezzi migliori del campionato magiaro se ne vadano all'inizio degli anni 30. La svolta arriva negli anni 40, quando il paese passa sotto il controllo dell'Unione Sovietica. Nel 1944, grazie a elementi del calibro di Rotko, Olaskar e Kincses, la società del sobborgo di Budapest diventa una delle realtà più effervescenti del calcio ungherese, che proprio in quegli anni pone le fondamenta per dar vita al periodo migliore della propria storia. Sempre in quel tempo, pochi anni dopo, debuttano in prima squadra altri giocatori destinati a segnare un'epoca. Un tale Josef Bozic, ad esempio. Può darsi che a molti questo nome non dica molto. Chi invece ha dimestichezza con la storia del calcio saprà che si tratta semplicemente del più forte centrocampista centrale di tutti i tempi. Tecnico, forte fisicamente, imbattibile di testa. Accanto a lui, il genio. Semplicemente il più grande giocatore ungherese di sempre, uno dei primi 10 al mondo, uno che in quelle oziose classifiche che vengono talvolta compilate con i talenti più significativi della storia del calcio, merita di stare lì, tra Maradona e Pelé, tra Cruyff e Messi, tra Di Stefano e Van Basten. E il nostro primo personaggio di oggi si chiama Ferenc Puskás. Ferenc Puskás. Più di 1000 gol in carriera. Questo dato basterebbe a far riservare un angolino dell'Olimpo del pallone a Puskás. Non è sufficiente a descriverne fino in fondo la grandezza. La personalità, il carattere, l'attitudine alla leadership, l'estro fuori e dentro il campo che hanno reso Puskás giocatore e personaggio unico di questo sport. Puskás nasce nel 1927 a Budapest. Alla nascita il suo nome in realtà è Ferenc Purcseld, ma il padre decide nel 1937 di cambiare il cognome di famiglia. Puskás inizia la carriera calcistica in giovane età, giocando nelle giovanili del Kispest Budapest. A 16 anni il giovane attaccante debutta da titolare in prima squadra, di cui il padre era diventato allenatore. Si rivelano subito la sua forza di volontà e la sua ambizione, malgrado la giovane età. La nazionale ungherese lo inserisce prestissimo nel giro, tanto che Puskás fa il suo ingresso sulla scena internazionale all'età di 18 anni contro l'Austria. Si tratta del primo appuntamento calcistico internazionale dell'Ungheria dopo la Seconda Guerra Mondiale e sancisce la nascita di una carriera senza pari con i colori della nazionale. Nel 1947 il Kispest si piazza al secondo posto nel campionato ungherese, l'anno dopo quarto, ma Ferenc Puskás è autore di ben 50 reti in 28 gare di campionato. Il suo talento è cristallino, un motore straordinario montato però su una carrozzeria inverosimile. Puskás è basso, tozzo, con un filo di pancetta. A vederlo tutto sembra fuorché un atleta, anche un'aria vagamente pigra. Eppure con il pallone fra i piedi è un giocatore assolutamente straordinario. In particolare stupisce la facilità e la precisione con cui Puskás riesce a tirare da ogni posizione. Alcuni critici del pallone sostengono ad oggi che Ferenc sia stato il più grande tiratore del calcio. Fatto sta che alla fine degli anni 40 l'attenzione dei riformatori del calcio ungherese, che poi sono semplicemente quei funzionari comunisti che vorrebbero usare il calcio come strumento di propaganda, scelgono per la costruzione del mito sportivo proprio il Kispest, per l'abbondanza di giovani talentuosi che militano nelle sue fila. La decisione è drastica. La squadra si fonderà con la compagine calcistica militare, diventando la prima potenza del calcio dell'est europeo. Honved è il nome della squadra dell'esercito e Honved è anche il nome ungherese che indica il soldato di fanteria. Si cambiano le maglie. Il Kispest le aveva rosso-nere, la Honved l'avrà rossa, di un rosso molto consono al regime di cui deve diventare il vessillo. Insieme alle nuove maglie arrivano anche nuovi campioni come Grosic, Kocsis, Tibor, Lorant. La regia dell'operazione è condotta da due figure essenziali. La prima è quella del CT della nazionale, Gustav Schebesch, uno dei più grandi allenatori della storia, inventore del modulo a doppia M, tutto spettacolo e fantasia. Schebesch era stato un difensore fortissimo negli anni 30, innamorato dello sport e del pallone. Come emerge da una delle tante interviste d'epoca, è uno dei primi allenatori moderni, uno dei primi a curare tutti i dettagli fino in fondo. Per me il calcio era una questione esistenziale. La mia passione sviscerata per il pallone mi spingeva a vivere sportivamente, perché solo così avevo modo di entrare come titolare fisso in squadra e mantenere il posto. Ero molto autocritico. Dopo ogni partita analizzavo il mio gioco, cercavo di individuare le mie debolezze e di correggere le deficienze durante gli allenamenti. Cercavo di mantenermi sempre in buona forma, poiché sapevo che in condizioni fisiche migliori, con una maggiore volontà combattiva, sarei stato capace di avere la meglio anche su calciatori tecnicamente più forti. Così è stato per Schindler, Brenn, Meazza, Piola, Sarosi e altri. Io stimavo, apprezzavo tutti i miei avversari, ma non li ho mai sopravvalutati. Seguendo il modello italiano di Vittorio Pozzo, l'idea di Schebesch è semplice. Centrare la nazionale su un blocco consolidato proveniente dalla stessa squadra di club e far ruotare gli altri intorno a tale blocco. Così contribuisce con precisi consigli e consulenze a far nascere la Honved. Insieme a lui opera un direttore tecnico di abilità straordinaria. Sarà un uomo decisivo per la Honved e per il calcio ungherese. Più ancora lo sarà in futuro per Puskás. E il nostro secondo personaggio di oggi. Si chiama Emil Oestreicher. Emil Oestreicher. Può sembrare strano accostare il nome leggendario di Puskás a quello ai più quasi sconosciuto di Oesterreicher. Uomo schivo, colto, elegante, fuori dalle luci della ribalta, si sa poco di lui. Si sa, ad esempio, che nasce il 2 dicembre 1915 in Ungheria. Si sa che compie studi economico-giuridici che lo portano a diventare un brillante direttore sportivo della Federazione Calcistica Magiara. Si sa anche che quando il regime sovietico decide di costruire la propria squadra di riferimento, la Honved, lui viene designato team manager. Poche sono le dichiarazioni e le frasi da lui pronunciate ai tempi della Honved che sono giunte fino a noi. Poche ma significative, come questa, in cui racconta un aneddoto che mostra con precisione la sua visione del calcio. L'allenatore può fare un lavoro efficace solo se il giocatore dispone di un'intelligenza di gioco speciale. La capacità non è tutto e non serve a molto se non si accompagna all'esercizio, all'allenamento e a un corretto modo di comportarsi e di vivere. Un calciatore che non fa vita da sportivo può avere anche un titolo di studio, ma non potrà mai chiamarsi un giocatore intelligente. Quando Józef Turay, uno dei migliori giocatori nella storia del calcio ungherese, entrò nel Ferencváros e poco dopo nella nazionale magiara come centravanti, non sapeva né leggere né scrivere e pensare che in campo era raffinato, geniale. Quando era già conosciuto come calciatore in tutto il paese, ebbe l'umiltà di ammettere il suo disagio. Si presentò ai suoi dirigenti e disse apertamente che soffriva di un terribile complesso di inferiorità e che lo avrebbe sofferto finché non avesse imparato a leggere e a scrivere. Era giocatore ormai di fama europea quando finì gli studi. Doveva avere una bella forza di carattere. Vecchio amico del padre di Ferenc Puskás, stringe una grande e profonda amicizia con il campione ungherese. Del suo lavoro con la squadra della capitale beneficia l'Ungheria intera. La sua sinergia con il commissario tecnico della nazionale, Gustav Sebes, lo porta a costruire una rappresentativa nazionale invincibile e spettacolare, che niente e nessuno sembrava poter fermare. Niente, tranne la violenza della storia. Oggi a Destini Incrociati vi stiamo raccontando la storia di una delle più grandi squadre di club della storia del calcio, la Honved, di una delle nazionali più forti, l'Ungheria, e di uno dei più grandi astri del pallone, Ferenc Puskás. Regista di un simile colossal calcistico, Emil Oesterreicher, manager ungherese che negli anni 50 non ha ancora 40 anni, ma ha già esperienza e lungimiranza da vendere. Oesterreicher, quando la Honved appena nata gli viene affidata, si ritrova tra le mani una giovane generazione di fuoriclasse, di quelli che in un paese fioriscono tutti insieme solo per un'inspiegabile congiunzione astrale, di quelli che ti fanno pensare che gli dèi amano il pallone e ogni tanto vogliano divertirsi. Già dai primi anni 50 la Honved è semplicemente la più forte squadra al mondo, anche se paradossalmente non esistono ancora competizioni internazionali per dimostrarlo e la Coppa dei Campioni nascerà solo dopo qualche anno. La Honved conquista il titolo nazionale nel 1950, 1952, 1954 e 1955. Lo scheletro del team diventa il blocco su cui è fondata la nazionale. Nasce la leggenda della squadra d'oro ungherese, la mitica nazionale magiara. Arrivano lezioni di calcio su ogni campo del mondo, con Puskás capitano, mentre Oesterreicher osserva attento e fiero dalla tribuna. Tra il 14 maggio 1950, data della sconfitta in Austria per 3-5, e il 4 luglio 1954, l'Ungheria colleziona 29 vittorie e 3 pareggi su 32 partite, con l'incredibile bilancio di 143 gol fatti e 33 subiti, il che la dice lunga sulla propensione offensiva del suo gioco. 4 anni di imbattibilità. In questo sontuoso percorso sono memorabili 3 incontri. Il primo, il 17 maggio 1953 a Roma, inaugurazione dello Stadio Olimpico. Ungheria 3, Italia 0. Dopo 28 anni che gli ungheresi non vincono sul suolo italiano, lo fanno ora con una lezione di calcio severissima. Per la prima volta la radio ungherese trasmette un incontro di calcio in diretta e immaginiamo l'orgogliosa commozione dei tifosi ungheresi che ascoltano in radio la lunga standing ovation che i tifosi italiani tributano ai leoni magiari. Contro l'Italia, Puskás era stato marcato dal mediano romanista Bortoletto, che rimedia una brutta figura, ma ricorderà anni dopo in un'intervista: era poco bello da vedere, ma era un fuoriclasse. Ci dettero una lezione di calcio, tanto che dopo quella sconfitta chiusero le frontiere agli stranieri. Ma fu una reazione esagerata, perché oggi quella sconfitta, che sembrò scandalosa, può essere considerata scontata. Era la grande Ungheria, era Puskás, era un orologio perfetto. La seconda impresa è quella che suscita un clamore straordinario. Il CT Sebesh, in occasione del successo alle Olimpiadi del 1956, aveva ricevuto da Stanley Rouse, presidente del calcio inglese e futuro numero uno della FIFA, l'invito a far cimentare i propri ragazzi nel tempio di Wembley. Di propria iniziativa accetta la sfida, fissata ovviamente dai maestri con l'occhio alle loro note preferenze climatiche. Novembre, per la precisione il 25 del 1953, nel mitico Wembley. Si dice che il premier ungherese Matthias Rákosi si sia rivolto al CT Sebesh in questo modo: e se dovessimo perdere, faccia bene attenzione. Sebesh, con l'aiuto di Oestreicher, non lascia niente al caso. Si reca a Londra all'inizio di novembre per assistere a Inghilterra resto d'Europa finita 4-4. Accortosi che il pallone non rimbalza mai per più di mezzo metro, la mattina dopo si reca ancora a Wembley e, vestito da passeggio, prova a correre, a condurre il pallone, a calciarlo in aria, valutandone le traiettorie. Gli operai che lavorano sul campo lo prendono per pazzo. Lui, prima di far ritorno a Budapest, chiede in regalo alla federazione inglese 3 palloni di marca. In patria fa allargare un campo di allenamento per raggiungere i 110x70 del mitico tempio del calcio d'Albione e per 3 volte la settimana fa chiamare da Emil Oestreicher ad allenarsi i migliori giocatori ungheresi, ovviamente coi 3 palloni britannici. A fine mese si gioca. Puskás ha il radar per la porta. La vede da qualunque posizione, si gira con una facilità irrisoria per gli avversari e calcia mazzate spaventose. Wembley fino a quel momento non è mai stato violato da nessuna squadra continentale. Quell'amichevole per i leoni inglesi assume un senso particolare: dimostrare che i veri maestri del calcio non sono disposti a cedere il passo. In un silenzio irreale, nonostante lo stadio gremito in ogni ordine di posto, l'Ungheria domina dal primo minuto. Dopo 50 secondi, Puskás va a segno. Finisce 6-3 per l'Ungheria e per i presuntuosi inglesi è uno shock. È stata una gara tra cavalli da corsa e cavalli da tiro, scrivono i giornali britannici. Mai una squadra del continente aveva vinto sul suolo inglese. Da mezzo secolo i maestri non perdevano sul proprio campo. Il fragoroso punteggio di 6-3 con 2 reti e infinite magie di Puskás desta enorme scalpore. Una piccola nazione comunista che spugna Londra. A Budapest ancora oggi c'è un bar che si chiama 6-3 in ricordo di quel risultato. Qualche mese dopo la rivincita, 7-1 per gli ungheresi. Al mondiale del 1954, che si disputa in Svizzera, l'Ungheria di Puskás arriva da grande favorita. Il titolo mondiale deve sancire la superiorità assoluta di quella macchina da calcio. In Svizzera, però, dopo le spettacolari dimostrazioni di gioco dei primi incontri, qualcosa non va per il verso giusto. Durante gli ottavi, fase a gironi a Basilea, si trovano di fronte le due squadre destinate alla finale, Ungheria-Germania. I tedeschi erano stati travolti per 8-3, ma il centro mediano tedesco Liebrich entra con durezza punitiva per ben 3 volte su Puskás. La rivista viennese Sport Magazine commenterà poi: l'invulnerabilità di Puskás era ormai un fenomeno leggendario. Per molti anni, in modo incredibile, era uscito indenne da tutti gli scontri fino alla battaglia del Reno contro i tedeschi dell'8 giugno 1954. La terza entrata di Liebrich distrugge la caviglia di Puskás, mettendo fine, secondo i medici, al suo mondiale. Nonostante l'assenza del suo gioiello, nonostante una colossale rissa scoppiata al termine della vittoriosa partita contro il Brasile, i magiari giungono in finale. La caviglia di Ferenc è gonfia come un melone, ma il capitano scende in campo lo stesso, con qualche puntura di antidolorifico, invocato anche dai compagni che vogliono averlo lì nell'incontro più importante. Il grande, immenso Puskás va in gol dopo appena 6 minuti, dando illusoriamente ragione al CT. Poi il riaffiorare del dolore lo fa via via svanire dal match fino a scomparire del tutto. L'Ungheria va in vantaggio 2-0, poi le pile si scaricano. L'arbitro sbaglia qualche clamorosa decisione e i tedeschi rimontano. Finisce 3-2. Nessuno se lo sarebbe immaginato, nemmeno lo stesso Puskás. Tutto quello che accadde in quei 90 minuti mi sembra inspiegabile. Come il fatto di aver perso l'opportunità di trascorrere le vacanze accanto alle nostre famiglie, come ci aveva promesso il governo di Budapest. Era il regalo se fossimo diventati campioni del mondo. Nessuno dubitava che questo sarebbe accaduto. Specialmente i giornali sportivi, che ci avevano già attribuito l'etichetta di squadra più forte del mondo, senza neppure aspettare che la finale venisse giocata, dimenticando così due cose fondamentali: che il pallone è rotondo e che il nostro momento più brillante lo avevamo vissuto a cavallo tra il 1950 e il 1953. Si sgretola il mito. Sebesh sarà licenziato e la nazionale ungherese perderà via via i pezzi, avvicinandosi al fatidico 1956. Quando Puskás si riprende, la sua Honved, guidata da Oestreicher, torna ad essere la squadra più forte e temibile d'Europa. Proprio dopo il Mondiale svizzero del 1954, peraltro, nasce una competizione europea volta proprio a dimostrare quale fosse la compagine più forte d'Europa, la Coppa dei Campioni. Il concetto di competizione continentale per formazioni di club nasce nel 1954. In quell'anno sui giornali sportivi francesi si apre un acceso dibattito su chi sia la squadra più forte tra gli spagnoli del Real Madrid, gli italiani del Milan, gli ungheresi dell'Honved e gli inglesi del Wolverhampton, formazioni all'epoca ai vertici dei rispettivi campionati nazionali. Il quotidiano transalpino L'Equipe, diretto da Gabriel Anou, propone a FIFA e UEFA l'idea di un campionato fra i maggiori club d'Europa. In un primo tempo le due associazioni non si mostrano entusiaste dell'idea, ma una volta che L'Equipe si muove privatamente coi dirigenti di numerose società, la FIFA impone all'UEFA l'organizzazione del nuovo torneo. Il timore della UEFA è inizialmente quello che un campionato europeo per club possa avere un successo tale da oscurare sia i campionati nazionali sia il nascente campionato europeo per nazioni. La Confederazione Continentale decide pertanto di limitare il progetto, strutturandolo sul meccanismo dell'eliminazione diretta e ammettendo una sola società indicata dalle federazioni nazionali per ogni paese. Così viene alla luce la Coppa dei Campioni d'Europa, da disputarsi sotto l'egida della UEFA. A quella prima edizione prendono parte 16 formazioni provenienti dalle principali federazioni calcistiche. La Honved Budapest partecipa da favorita alla seconda edizione, 1955-1956. Match d'esordio a Bilbao contro l'Athletic. Ma mentre i giocatori ungheresi e quelli baschi danno vita alla sana battaglia calcistica, in Ungheria scoppia la rivolta. Si comincia a capire che la squadra invincibile, che gli avversari non sarebbero mai riusciti a fermare, sta per ricevere il colpo mortale dalla cruda storia della guerra. Destini incrociati. Ferenc Puskás è stato uno dei giocatori europei più forti. Talentuoso, geniale, estroso, il fuoriclasse ungherese ha segnato un'epoca del calcio continentale, facendo grandi la sua Honved e la nazionale ungherese nella prima metà degli anni 50. Emil Oestreicher, dirigente di grande abilità, è l'artefice di quella grande squadra di club. A fine ottobre del 1956, la Honved, accompagnata da Oestreicher, si reca a Bilbao per disputare il match d'andata degli ottavi di finale di Coppa dei Campioni. Avversari, i baschi dell'Athletic. In campo finisce 3-2 per gli spagnoli, risultato ampiamente ribaltabile al ritorno. Giunti negli spogliatoi, giocatori e dirigenti della squadra ungherese vengono accolti da una notizia ferale. A Budapest è scoppiata la rivolta. Ci sono scontri anche violenti per le strade. Dopo lunghe e approfondite discussioni viene presa una decisione. La squadra per il momento non farà ritorno in patria. Così almeno fanno la buona parte dei giocatori e dei dirigenti, compresi Puskás e Oestreicher. La situazione è destinata a precipitare. La Federazione Europea ci permise di giocare il ritorno in campo neutro a dicembre. Pareggiammo 3-3 e fummo eliminati. Ma poi la squadra fu squalificata per il mancato rientro in patria e nel campionato ungherese. La UEFA diffidò chiunque dall'utilizzare il nome di Honved. La situazione in patria è degenerata. I sovietici reprimono nel sangue con i carri armati il dissenso popolare. Puskás e Oestreicher riescono a farsi raggiungere dalle proprie famiglie e decidono di non fare più ritorno in patria. La UEFA però infligge 2 anni di squalifica al giocatore, che ha già 29 anni. La sua carriera di fatto sembra finita. 2 anni di inattività trascorsi in giro per l'Europa in compagnia della moglie. Dal 1956 al 1958 Ferenc Puskás trascorre così la propria vita. Il suo fisico era già piuttosto inusuale per un fenomeno del pallone, piuttosto tozzo. Ora questa sosta lo porta anche ad essere sovrappeso. Al termine dei 2 anni di squalifica, Puskás prova a rientrare nel giro del calcio che conta, ma sembra a tutti gli effetti un'impresa assolutamente impossibile. Grazie a delle conoscenze avevo fatto dei provini, dei test, all'Espagnol, al Milan, alla Juventus. Niente da fare. Ero grasso e vecchio, mi dicevano. La mia carriera era finita. Il più forte giocatore che l'Europa avesse prodotto, annichilito dalla storia. Sembra a tutti gli effetti un destino amaro e triste. Invece, quando le speranze sembrano perdute, nella camera d'albergo di Ferenc Puskás, ora stanziato a Sanremo, suona il telefono. È la voce di Emil Oestreicher. Ora è dirigente del Real Madrid, la squadra senza dubbio più forte d'Europa, 2 volte vincitrice della Coppa dei Campioni. Vieni qui da noi, dice Oestreicher. Vieni per un provino, ti farò ripartire. Puskás è titubante, pessimista. Come può la squadra più forte d'Europa accettare tra i titolari un giocatore nelle sue condizioni? L'insistenza di Oesterreicher è tale che Puskás cede e vola a Madrid. Ferenc Puskás si presenta al campo d'allenamento del Real con i suoi 15 kg in più e riabbraccia il vecchio amico Emil. Quando i due si ritrovano, lo giura che assiste all'incontro, si accende nei loro occhi il ricordo scintillante del periodo leggendario della grande Honved. Forse questo ricordo vincente accende in Puskás il fuoco sacro della determinazione. Il provino è sbalorditivo. Nonostante la scarsa mobilità, Puskás gioca al fianco di campioni come Alfredo Di Stefano, con una naturalezza incredibile, dispensando perle e colpi di classe. Il presidente delle Merengues, Santiago Bernabéu, non ha dubbi. Compratelo, blindatelo, ricopritelo di soldi, mettetelo a dieta, sono le sue parole. Grazie ad Emil Oesterreicher, Ferenc Puskás, quando sembrava un giocatore finito, vive una seconda carriera. Puskás dimentica alcol e sigarette e si mette a fare il professionista vero. 6 campionati spagnoli e 3 edizioni della Coppa Campioni. In una di queste, il vertice della sua carriera. Finale della Coppa Campioni del 1960 davanti a 130.000 tifosi nello stadio di Hampden Park, dove il Real Madrid sconfigge l'Eintracht Francoforte per 7-3. Di Stefano realizza una tripletta, ma la maggior gloria è per Puskás, con 4 gol a coronamento di una vittoria leggendaria. Il fuoriclasse ungherese termina la stagione con l'incredibile bottino di 35 gol in 39 partite. Puskás gioca con il Real Madrid fino al 1966, prima di ritirarsi all'età di 39 anni. In quegli anni anche Oesterreicher lascia i Blancos e viene ingaggiato dal Torino. Grazie a lui i carri armati dell'Armata Rossa non sono riusciti a prendersi il talento inestimabile di Ferenc Puskás. Fredda. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco.